Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Continuiamo questa sera a parlare del progetto Flotta Verde della Marina Militare. Ricordiamo che è un progetto che ha l'obiettivo di ridurre al 50% la dipendenza della Marina dal petrolio e di introdurre dei carburanti alternativi più rispettosi dell'ambiente. Ebbene, oggi una strada che appare molto promettente per la riduzione soprattutto delle emissioni inquinanti e in parte anche della CO2 nel settore navale è la conversione dei sistemi di propulsione al gas naturale al posto del gasolio. Nello specifico parliamo di GNL, cioè gas naturale liquefatto. A 160 gradi sotto zero, infatti, il metano diviene liquido, riducendo il proprio volume di 600 volte e potendo anche essere trasportato in sicurezza, praticamente a pressione ambiente. È infatti già così che viene oggi trasportato via mare dalle cosiddette gasiere. Ma diamo il bentornato a Pasquale Tripodi, capitano di fregata della Marina Militare e responsabile del progetto Flotta Verde. Buonasera. Buonasera dottore, di nuovo buonasera a tutti. Allora, voi avete già identificato una tecnologia promettente per realizzare delle conversioni, per realizzare dei navi dual fuel che vanno a gasolio e a gas naturale liquefatto. Ce la descrive brevemente? Sostanzialmente si tratta di un progetto di trasformazione di una nave, in particolare una nave adibita al trasporto costiero e quindi alla manutenzione dei fari, quindi allo svolgimento di attività per la sicurezza del trasporto marittimo, una nostra unità non combattente che è alimentata a gasolio per dargli la possibilità di funzionare anche a gas naturale liquefatto, il tutto senza trasformare, senza sostituire i motori di propulsione. Che è una specifica importante perché è evidente l'impatto economico che avrebbe. Ecco, e dicevo che avete già individuato una tecnologia, perché attualmente non esistono unità navali di questo tipo. Sì, sarebbe di fatto la prima volta nel mondo. Benissimo. La prima nel mondo, sfruttando tra l'altro una tecnologia che è un'eccellenza italiana, che è la tecnologia diesel dual fuel, che ha consentito ad esempio alla ditta Landi Renzo di diventare leader mondiale nella possibilità di trasformare dei motori diesel alimentati a gasolio in motori che riescono a funzionare con miscele gasolio-metano fino quasi al 100% di metano. Ecco, e qual è il trucco? Perché c'è un problema, per esempio è banale convertire un'auto a benzina a metano, basta mettergli il metano al posto della benzina e il motore funziona. Con i motori diesel le cose non vanno così, ci ricorda qual è il trucco qui? Sì, è un piccolo stratagemma, sostanzialmente il motore diesel funziona con la carica di aria che viene miscelata con il carburante che viene polverizzato e si autoaccende. Per compressione, quindi, no? Quando va sul pistone comprime l'aria e si accende da solo, non ci sono le candele insomma nei motori diesel. Non ci sono le candele. Ecco, è proprio questo il punto chiave, quindi ovviamente non si vogliono installare le candele perché significherebbe modificare il motore e incorrere in costi aggiuntivi. Allora quindi il piccolo stratagemma che si usa è quello di miscelare sull'aspirazione l'aria con il metano e poi iniettare, diciamo, in condizioni opportune, nel momento opportuno nella camera di combustione, una piccola quantità di carburante diesel che svolge la funzione della candela. Innesca la combustione anche del metano che altrimenti per compressione non si accenderebbe. E in questo modo diventa possibile, senza appunto sostituire o modificare il motore, utilizzare anche del metano. Senta, quali sono i benefici, al di là di quello ambientale, lo abbiamo già ricordato, che vi aspettate da sistemi del genere? Tra l'altro non abbiamo detto una cosa, voi lavorate con l'idea di avere un unico serbatoio che può ospitare sia il metano che il gasolio sostanzialmente, no? Sì, sostanzialmente questa è una nostra idea, cioè quello di utilizzare un unico serbatoio per trasportare indifferentemente gas naturale liquefatto o gasolio, quindi avvantaggiandosi del fatto che uno possa costare meno dell'altro oppure di stare in un porto dove sia disponibile l'uno e non l'altro. Certo, senza occupare due volte lo spazio a bordo della nave. Ecco, dicevamo, benefici al di là di quello ambientale. I benefici per noi sono importanti in termini di riduzione dalla dipendenza dal petrolio e di diversificazione delle nostre fonti energetiche e in più immaginiamo nel futuro nostre navi militari a gas naturale liquefatto possano rifornirsi direttamente da metaniere in mare si trovano per esempio a scortare. Come la mettiamo in termini di sicurezza? È sicura una nave che utilizza il gas naturale liquido, soprattutto una nave militare? Diciamo che noi stiamo studiando anche l'aspetto della sicurezza affinché, diciamo, l'impiego a bordo soddisfi tutti i nostri requisiti di sicurezza militare. Faccio un semplice esempio, cioè il gas naturale liquefatto a meno 160 gradi è un grosso nemico dell'incendio e un grosso nemico delle esplosioni, nel senso che difficilmente prende fuoco. Un esempio, diciamo, che ha valenza militare è quello della guerra del Golfo, in cui una metaniera fu trapassata da un missile, insomma Exocet, e non subì, diciamo, nessun tipo di incendio o danno da esplosione, se non il fatto di avere il serbatoio, che era pieno di gas naturale liquefatto, perforato. Normalmente ci sarebbe aspettati che saltasse per aria, lei mi sta dicendo. Perfetto, non è successo. Molto meglio così. Va bene, allora grazie Pasquale Tripodi. Grazie, arrivederci. Ci fermiamo qui, appuntamento domani.